questo libro non si allontani dalle mie labbra. Lo medito giorno e notte. Allora avrò successo nelle mie vie e la benedizione cresce in me. Prospero per la mano di Dio. Tutto ciò che faccio porta frutto. Prospero sotto i suoi occhi. La mia vita fiorisce giorno e notte. Sono come un albero piantato presso le acque, che dà il suo frutto nella sua stagione. Tutto ciò che intraprendo riesce nella pace della sua casa.